rimanere a letto ancora un po' e sentirti giù in cucina che già prepari il mio caffè e far finta di dormire per tirarti contro me. Sereno, ricordare il primo giorno che sei salita sulla moto mia, noi due soli senza compagnia. Volta che hai guidato tu dentro al fosso a testa in giù. Per poi ridere di te.